Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Appare incredibile, ma è la verità. In Italia manca una legge sull'inno nazionale. Ricordiamo i fatti. Nel 1946, a seguito dell'esito del referendum istituzionale, fu prospettata la necessità della scelta immediata del nuovo inno nazionale. Furono varie le proposte. Alcuni proposero il coro del Nabucco di Verdi. Altri l'inno di Garibaldi. Altri ancora l'inno del Piave. Altri infine l'inno di Mameli. Si scelse quest'ultimo. Fu una scelta di fatto, quindi provvisoria. I governanti del tempo dimenticarono che la scelta dell'inno nazionale, come la scelta della bandiera nazionale, deve essere legittimata da un testo normativo. Così rimase la scelta provvisoria. Ma nel nostro bel paese nulla è di più stabile del provvisorio. Purtroppo un'apposita legge non è mai stata promulgata, ma neppure deliberata. Nella ormai non lontana ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità Nazionale, è necessario provvedere con doverosa sollecitudine per dissipare l'usanza di rendere definitivo quello che è avvolto nella caligine della provvisorietà. Corrado. Caro Corrado, ci sono stati nel passato diversi disegni di legge, anche di carattere costituzionale, per rendere definitiva la scelta dell'inno nazionale. Ma tutti si sono fermati dopo un primo esame preliminare. La ragione è la stessa che lei ricorda nei primi giorni della Repubblica. L'attuale inno di Mameli non piace alla maggioranza dei parlamentari, ma nessuna ipotesi alternativa ha mai raggiunto quel largo consenso che dovrebbe contraddistinguere una scelta di identità, come quella appunto dell'inno nazionale. E allora, l'Italia ha tanti problemi, non aggiungiamone un altro. Lasciamo che il provvisorio diventi di fatto definitivo. Anche perché anche una nuova legge potrebbe sempre essere cambiata. Ma soprattutto in una fase come questa non abbiamo certo bisogno di nuovi temi su cui dividersi. E allora l'inno nazionale può rimanere com'è, magari suonato un po' più spesso, in occasione delle premiazioni dei grandi eventi sportivi. Alle ultime Olimpiadi lo abbiamo sentito una volta sola. Speriamo di risentirlo un'altra volta, dopo l'ultima partita dei mondiali di calcio in Sudafrica. Gentile direttore, le scrivo in merito alle continue notizie sui casi di pedofilia all'interno della Chiesa. Crimine orribile, da condannare e punire senza indugi. In un passo evangelico, nostro Signore proponeva di mettere la macina al collo e gettare in mare chi provocava scandalo ai bambini. È sicuramente un tema molto delicato e difficile da trattare, ma ultimamente sembra che i media stiano portando in maniera sistematica gli attacchi alla Chiesa, come se fosse la sola responsabile di un simile peccato. Ribadisco la fermezza nel condannare la pedofilia. Però vorrei segnalare l'oscuro lavoro che ogni giorno nel mondo i cristiani, preti, religiosi e laici portano avanti per il bene dell'umanità, rischiando a volte la loro stessa vita. Vedi Iraq, India, Pakistan, Egitto, eccetera. Proprio in questi giorni ricorre il trentennale dell'assassinio del primate della Chiesa del Salvador, Monsignor Oscar Romero, la cui unica colpa è stata testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo tra la sua gente. Sarò curioso di leggere il ricordo in qualche trafiletto nascosto nelle pagine interne di qualche quotidiano. Purtroppo fa sempre notizia l'albero che cade facendo rumore, mentre il resto della foresta cresce senza farlo quando si parla della Chiesa. In molta gente scatta quella forma di laicismo deleteria ai laici stessi. Carlo. È notizia di questi giorni che Claudio Bracchino sia stato sospeso per 2 mesi dall'Ordine dei giornalisti lombardi a causa del servizio sul giudice Mesiano. Non voglio entrare nel merito, dato che il servizio su Mesiano fu una sciocchezza, ma voglio sottolineare una contraddizione. Perché se Berlusconi cita in giudizio un paio di giornali, subito si scatena una manifestazione in difesa della libertà di stampa, alla quale partecipa tranquillamente il più grande querelatore di giornalisti italiano, ovvero Antonio Di Pietro, mentre i servizi alla Mesiano fatti dalla stampa di sinistra non vengono puniti mai. Ce lo ricordiamo tutti, il generale Speciale. Repubblica, l'11 ottobre del 2007, sparò in prima pagina questo titolo: «Gita in montagna e pesce fresco in baita, così Roberto Speciale usava l'ATR della finanza». E ancora, «Gita a scrocco verso il sole e la neve immacolata delle Dolomiti», come scriveva Carlo Bonini. Ma si sfotteva anche l'abbigliamento, proprio come nel servizio sul giudice Mesiano, scrivendo «Scende dall'aereo in coppola, le signore in pelliccia», come se questa fosse stata un'infamia. Quando la Corte dei Conti chiese il rimborso per i voli e la procura milanese accusò Speciale di peculato, Repubblica ci andò a nozze, accompagnata dai Berenghi, Gramellini, Floris, dai Travaglio e da tutta la degna compagnia democratica. Ma quando Speciale è stato assolto perché il pesce lo portava ai suoi soldati e allo Stato non aveva rubato un euro che fosse uno, la smentita di Repubblica venne pubblicata a pagina 15, in basso, come una clausola. Dove fossero allora le indignazioni di Gramellini o dell'Annunziata, che tanto si sono stracciati le vesti in difesa di Mesiano, esibendo i calzettoni turchesi d'ordinanza? Nessuno lo sapeva più. Marco. Gentile direttore, in questi giorni provo una sconcertante sensazione. Mai come oggi, infatti, sento che le due maggiori forze politiche puntino maggiormente a screditare gli avversari, piuttosto che cercare di vincere le elezioni, presentando i punti fondamentali del proprio programma politico. Mi stanno mettendo nelle condizioni di dover votare il meno peggio, senza poter esprimere la mia preferenza in base al programma che ritengo più vicino alle esigenze dei cittadini. Personalmente lo ritengo inammissibile. Luca. L'Italia politica è in fibrillazione, mentre il popolo elettore, non più sovrano perché non può neanche scegliere il proprio candidato, si arrende all'indifferenza con un malinconico «sono tutti uguali, sono tutti gli stessi». Dopo aver scardinato anche la fiducia, il cavaliere presidente del Consiglio fa appello alla moderazione, accusando gli altri di seminare zizzania o, come ama sostenere, seminare odio e invidia, a cui contrappone il suo amore e la sua dedizione al bene comune. Ormai la frittata è stata rivoltata tante di quelle volte che si è bruciata da ambo le parti e il puzzo di bruciato inonda tutti i gangli di questo governo, minacciando anche lo Stato democratico. Prima che possa pronunciarsi con il voto, il popolo viene chiamato a raccolta per esprimere un atto di forza, come un ricatto latente che potrebbe esplodere al solo comando di chi crede di poter decidere anche della pace sociale, pur di non dover rinunciare a nessuno dei suoi progetti autoritari. Si tratta solo di una fibrillazione controllata, una chiamata dei fedelissimi perché dimostrino l'ipotesi di una possibile utilizzazione dei mezzi coercitivi, ma popolari, spontanei, che emergono dal basso, anche se si tratta di una spontaneità a comando, sollecitata a volte, imposta per lo più. I parlamentari sono stati tassati per pullman. Ognuno deve portare a Roma un certo numero di adepti direttamente proporzionali al numero di elettori della propria zona, clienti, aspiranti clienti, disoccupati che credono alle promesse, giovani che sperano nella cavalleresca provvidenza, tutta un'umanità bisognosa che dal loro stesso bisogno viene ricattata per eseguire ordini che non produrranno nient'altro che un'occasionale visibilità al capo. A loro resterà il cestino con la colazione al sacco, almeno per chi ci arriva. Rosario. Egregio direttore, sono un dipendente pubblico. A differenza di molti, penso che la pubblica amministrazione sia la colonna vertebrale di una nazione. Ciò impone un'assunzione di responsabilità civile e morale. Il lavoro che svolgiamo non è solo per noi o per la nostra famiglia, non è solo per portare a casa uno stipendio, ma anche per permettere al nostro paese di affrontare e vincere le sfide del mondo globalizzato. Quanto dico non proviene da un rigurgito di amor patrio, ma da una semplice e banale osservazione. Il resto del mondo non accorrerà a salvarci dal nostro degrado, ma cercherà di occupare gli spazi che lasceremo liberi. Per dare una prospettiva a noi, ai nostri figli e a chi verrà dopo di loro, occorre che tutti si rimbocchino le maniche. I dipendenti pubblici lo devono fare prima e più degli altri, senza chiedersi il perché o il per come. Se il paese fosse un'automobile, la pubblica amministrazione ne sarebbe la struttura portante. Poco servirebbero un roboante motore o performanti pneumatici da Formula 1, senza una scocca capace di ospitare il primo e offrire i mozzi su cui montare le seconde. In conclusione, basta con atteggiamenti svogliati o peggio ancora truffaldini. Riappropriamoci della nostra dignità di cittadini e di lavoratori. E cominciamo a far funzionare la struttura pubblica contro ogni burocrazia e inefficienza. Marcello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.